in primo piano. Venerdì 4 febbraio è proprio il federalismo il tema che campeggia sulle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore, federalismo per decreto. Per il Corriere, sul federalismo Bossi non rompe. Repubblica, federalismo stop in Parlamento. Per La Stampa, federalismo arriva al decreto. È la parola più gettonata, Il Giornale, il federalismo è legge. Messaggero, federalismo, decreto tra le polemiche. Il Fatto Quotidiano punta sul caso Ruby, dice: ci sono le foto, un'asta per le foto, immagini del premier nudo con le ragazze offerte ai giornali. Mentre per Libero, caso Ruby vince Silvio. Vi risparmio la prima pagina dell'Unità, cioè vi risparmio. C'è una foto di un deputato, Rocco Girlanda, del PDL, pescato in aula, che fa non un dito medio, ma due dita di entrambe le mani, alza il dito medio di tutte e due le mani, gioco al massacro. Eccolo qui, Rocco Girlanda, deputato del PDL, ieri in aula. Questo è il titolo dell'Unità. Il doppio dito medio di Rocco Girlanda, si presuppone agli avversari politici. Allora, da dove vogliamo iniziare? Da due belle paginate che, come al solito il venerdì, prima del weekend, sarete in macchina e vi metteranno di ottimissimo, se si potesse dire, umore. Cominciamo dal Corriere della Sera. Sergio Rizzo, le spese di rappresentanza, Lazio batte Germania 23-1. Sergio Rizzo analizza i conti del Consiglio regionale del Lazio, ovviamente conti abnormi, conti del 2009, le spese per il Consiglio regionale salite a 91 milioni, un anno dopo nel 2010 102 milioni, un aumento del 12% alla faccia della crisi, le previsioni per il 2011 103 milioni di spese di previsione per mantenere il Consiglio regionale. Ovviamente ci sono anche le spese tipo questa, a costo zero era stato annunciato il giornale al tempo di internet, la rivista cartacea del Consiglio regionale. A costo zero era la promessa e invece per esempio lo stipendio del direttore, 30.000 euro annui. A chi è stato dato? All'ex capo ufficio stampa del Consiglio regionale Nicola Gargano, pubblicista in pensione da qualche mese. Eccolo qui, pensionato e subito nominato direttore, con una pensione già di 204.000, o meglio lo stipendio era di il capo ufficio stampa, 204.470 euro 77 centesimi, il capo ufficio stampa del Consiglio regionale. Una retribuzione, scrive Sergio Rizzo sul Corriere, che supera del 30% di quella del governatore della California, tranne che il fatto che Arnold Schwarzenegger, l'ex governatore, vi aveva rinunciato con una motivazione di decenza: sono già abbastanza ricco. E poi le spese pazze, per esempio è invalso l'uso in tutte le regioni peraltro di avere i gruppi regionali, i gruppi consigliari, anche formati da un solo consigliere regionale, per cui per esempio Francesco Pasquali, che ha costituito in solitudine il gruppo di Futuro e Libertà, notate come stride in italiano, un gruppo formato da un consigliere, un bel gruppo, si riuniscono da solo. Questo permette di avere ovviamente segretarie, assistenti, sette assistenti. Avere un gruppo vuol dire avere sette assistenti, l'auto di servizio, il telefonino e un consistente aumento di stipendio, 891 euro. Perché? Perché si è capogruppo. Capogruppo di un gruppo formato da una persona sola. Questo è il bello della politica italiana. Sergio Rizzo oggi sul Corriere, le spese di rappresentanza, Lazio batte Germania 23-1. Se non siete abbastanza di buon umore, potete saltare sulla Stampa, pagina 9, e così vi farete delle risate grasse. Siamo tutti indispensabili, così la casta salva se stessa. È una decisione che proviene dalla regione Sicilia, dove un deputato, perché si chiamano così, onorevoli deputati, quelli del Parlamento siciliano, sono poi consiglieri regionali, un consigliere regionale, o meglio un deputato, aveva deciso di fare abbassare da 90 a 70 i membri del Parlamento, appunto, siciliano. Era Giovanni Barbagallo del PD. Ovviamente la proposta è stata bocciata la proposta di ridurre il numero degli onorevoli. D'altronde, scrive Laura Anello da Palermo, I deputati siciliani, gli onorevoli, guadagnano 19.400 euro lordi al mese, sborsano 9 euro per un pranzo completo alla buvette, a scelta etnico o tradizionale, l'altra metà lo paga l'assemblea, cioè i cittadini. Il caffè purtroppo è a parte, bisogna sborsare la bellezza di 36 centesimi per il caffè. Ma non è certo questo, per questo che 8 componenti della Commissione Affari Istituzionali, compatti come una falange, hanno detto no alla proposta, appunto, di ridurre da 90 a 70 i deputati, dopo 3 sedute hanno ammainato in fretta la bandiera dei riformatori. E ovviamente, quali sono le motivazioni? Va bene la riduzione, ma inserita in un contesto più ampio di riforma dello statuto. Questa è per esempio la dichiarazione di Raimondo Torregrossa, deputato del PDL. Che ineleganza parlare dei 496.400 euro che ogni anno un deputato siciliano costa alla collettività, scrive La Stampa. Che qui squiglia la storia dei 20.300.000 euro che calcolano Enrico Del Mercato ed Emanuele Lauria nel libro La Zavorra, si risparmierebbero allineando la spesa a quella, per esempio, del Consiglio regionale lombardo. Di fronte a super stipendi, maxi benefit, non c'è obbedienza di partito che tenga. E dunque, tutti uniti contro la minaccia di perdere il seggio. A questo è dedicato anche il buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, dal titolo I sultani di Sicilia. La giornata politica convulsa, certamente densa di avvenimenti e anche di tensioni, può essere riassunta con la prima pagina dell'Unità che oggi vi voglio riproporre. È una foto che ritrae l'onorevole del PDL Rocco Girlanda, che espone il dito medio di entrambe le mani agli avversari politici. Gioco al massacro, questo è il titolo dell'Unità. Cosa è successo ieri? Beh, è stato dato parere negativo dalla commissione bicamerale sul federalismo, perché c'è stato un pareggio, quindi equivale a una bocciatura al federalismo, ma poi in serata c'è stata l'accelerata, vale a dire il governo riunito ha detto il suo sì e ha approvato il decreto sul federalismo. Dunque una giornata molto convulsa. Stop in commissione, ma il governo approva, così titola pagina 3 del Sole 24 Ore, il via del Consiglio dei Ministri al federalismo arriva dopo il voto in bicamerale finito 15-15, con ora anche il dibattito politico, le 315 ragioni per cui Bossi resta fedele all'alleanza con il Premier, Stefano Folli nel suo punto, i 315 voti della Camera che ieri sera hanno detto no alle richieste della procura milanese dimostrano che la maggioranza berlusconiana resta compatta. Quei 315 voti equivalgono ad altrettanti argomenti che giustificano la decisione di Umberto Bossi di restare accanto al suo alleato e amico Berlusconi. Ieri, infatti, il secondo fatto politico importante è che la Camera ha detto sì a respingere gli atti rispediti dunque al mittente, gli atti alla Procura di Milano sul caso Rubi, che vedono indagato Silvio Berlusconi. Certo, però, questa approvazione del federalismo fa interrogare molti commentatori dei giornali, anche a dire i malumori, per esempio, sono i malumori intanto dei leghisti della base, malumori leghisti anche verso il leader. Non vogliamo fare i pretoriani, così Marco Cremonese a pagina 3 del Corriere della Sera. È un atto di fede, speriamo soltanto di non morire facendo i pretoriani di Berlusconi. Ecco la doccia gelata del voto in bicamerale sul federalismo che ha colpito duro il Carroccio, ma poi Umberto Bossi ha detto si va avanti e in serata il decreto è stato approvato dal governo. Dice in un certo senso il governatore del Veneto Luca Zaia con questa frase: chi vuole il cambiamento è sbigottito, il cammino della legislatura ora è affidato a Bossi e Berlusconi. Oppure Marco Reguzzoni, capogruppo alla Camera: per noi della Lega si tratta di un risultato estremamente importante che tutto il paese si aspettava, però sta di fatto che questa approvazione certamente risulta come, qualcuno dice, una forzatura. A leggere per esempio i commenti dei commentatori politici, le sensazioni che si colgono per esempio dal Quirinale, dal capo dello Stato, sono sconcerto. Questo almeno secondo Repubblica, lo sconcerto del Quirinale, già smentite le aperture al dialogo. Oppure La Stampa: il Quirinale irritato per l'ultima forzatura, passa il diktat del senatur, senza devolution si va a votare. Secondo Repubblica, per l'appunto, Francesco Bei, dal punto di vista regolamentare, quello espresso dalla bicameralina, cioè quel pareggio, è un non parere, come ci aveva detto ieri il presidente La Loggia, il presidente di quella bicamerale qui ai nostri microfoni, ovvero è come se il Parlamento non si fosse pronunciato e, visto che i termini scadevano ieri del decreto, il governo ha varato lo stesso il decreto uniformandosi al voto espresso dalla Commissione Bilancio del Senato. Tutto lineare secondo chi sostiene questa linea. Il Quirinale, scrive Repubblica, non la pensa così. C'è qualcuno addirittura ipotizza che Napolitano potrebbe addirittura non firmare questo decreto. Lo sconcerto o l'irritazione o un po' di malumori da parte del Quirinale sono invece, diventano per il Corriere della Sera, l'orrore. Si sarebbe detto inorridito Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per questa decisione di andare avanti comunque nonostante il pareggio in bicamerale. Una fonte governativa, scrive Marco Galluzzo sul Corriere, definisce inorridito Gianni Letta dalla decisione di Berlusconi di andare avanti a sprombattuto, convocando la riunione dell'esecutivo in serata per chiudere definitivamente il capitolo del federalismo municipale. Per la verità, questo di sentirsi inorridito lo troviamo, quindi sono già due che danno questa notizia, anche sul Giornale. Il Giornale con Adalberto Signore, cercherò di non spaccare il microfono con i giornali la prossima volta. Il Giornale con Adalberto Signore scrive: Berlusconi zittisce le colombe, basta bon ton, inizia la guerra. Nonostante Letta si dica inorridito dal decreto, c'è il plauso di Tremonti, e Berlusconi ieri sera ha convocato, appunto, su anche volontà di Umberto Bossi, che avrebbe detto a questo punto o passa questo federalismo, questo decreto, oppure tutti a casa, ha convocato il Consiglio dei Ministri e questo decreto sul federalismo è passato. Poi in serata c'è stato l'altro evento importante, quello del voto alla Camera, che con 315 sì, e Berlusconi non ha votato, quindi sarebbero stati 316, il che vuol dire maggioranza assoluta, 315 sì, 298 contrari, la Camera ha detto no alla Procura di Milano, ha respinto gli atti alla Procura di Milano, gli atti con cui la Procura chiedeva la perquisizione degli uffici di Giuseppe Spinelli, vale a dire il ragioniere che tiene i conti di Silvio Berlusconi. E ovviamente c'è subito i soliti retroscena sulla conta. Il più interessante articolo in questo senso è quello di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, che trovate a pagina 6. È lì, tra l'altro, in quella seduta che l'onorevole Rocco Girlanda ha alzato entrambe le mani mostrando il dito medio di mano destra e mano sinistra, no? Immagino dopo aver vinto dal punto di vista del voto, ha alzato queste due dita. Fabrizio Roncone, dicevo, sul Corriere della Sera fa l'articolo più interessante della conta di chi ha votato, chi non ha votato, perché ovviamente ci sono alcuni dell'opposizione che di fatto o non si sono presentati o non hanno votato, alcuni hanno votato, si sono astenuti. Ecco, per esempio, Latteri non c'è, Rosso scappa, ecco gli aiutini dell'opposizione. L'onorevole Latteri, del Movimento per l'Autonomia, ex rettore dell'Università di Catania, uomo di precisione, puntualità, maniacali, a un quarto d'ora dal voto diventa irrintracciabile. Roberto Rosso, che è un finiano di Future Libertà, ma si presenta incupito, taciturno, gli si avvicina Della Vedova e gli dice: dai, non puoi, proprio oggi pomeriggio, un voto troppo importante. E Rosso risponde: senti, ti dico la verità, il fatto che io sono molto legato a Berlusconi, lo conosco da un sacco di tempo, e questa è una votazione di stampo estremamente giudiziario, io non me la sento. E ovviamente subito gira voce che a Rosso sia stato promesso un posto da sottosegretario. Questi subito le battute in Consiglio dei Ministri. Poi c'è Giulia Cosenza, che ha partorito da pochi giorni ed è uscita appena dalla clinica, e nessuno è dei finiani, nessuno si è sentito di chiederle di venire a votare. Nel PD mancano Cinzia Capano, Marco Fedi, Anna Rossomando. Casini ha lasciato che Luca Volonté volasse in Argentina, Gianni Vernetti dell'API è in missione in Africa, così come in missione Daniela Melchiorre, Carla Zeller dell'SVP, assente Antonio Gaglione, ma non fa più notizia, è uno che ha tipo il 98% di assenze, una roba del genere, assente Paolo Guzzanti, sono influenzato, sto a casa al caldo. E poi c'è il dramma Barbareschi, Barbareschi è quello più chiacchierato, passa di qui, va con Berlusconi, non è una barzelletta. Si è astenuto, ma dramma Barbareschi, prova a disperarsi, dice che gli è scivolato il dito sul tasto al momento del voto, si precipita dai commessi, chiede che venga verbalizzato il suo errore dicendo mi è scivolato il dito, vi giuro, volevo votare ma risulto astenuto, al che Fabio Granata, suo compagno di partito, e si chiede Roncone, ex forse, dice Barbareschi che prima si astiene, poi corregge, è la cosa più divertente di questi bui giorni della nostra democrazia. Secondo me la cosa più divertente invece sono quelle due dita medie alzate della mano destra e della mano sinistra, immortalate dall'Unità, da parte dell'onorevole Rocco Girlanda. E il retroscena, perché siamo sempre alle letture politiche da una parte, retroscena dall'altra, più interessante però forse è quello di Francesco Verderami, sul Corriere della Sera, la partita finale per evitare le elezioni. Sentite cosa ha detto a un certo punto Pierluigi Castagnetti del PD ad alcuni interlocutori in Parlamento. Guardate che Berlusconi e Bossi si sono messi d'accordo per andare alle elezioni a maggio. Così Castagnetti, che per superare lo scetticismo, le perplessità di quanti lo stavano ad ascoltare, ha citato la fonte. Me l'ha detto il ministro dell'interno Maroni. Silenzio gelido. Se vi dico che me l'ha detto Maroni, potete crederci. Vogliono andare al voto in primavera e il loro problema è trovare il modo per provocare la crisi e arrivare alle urne. Insomma, quindi Francesco Verderami racconta questo retroscena. Secondo Pierluigi Castagnetti, che l'avrebbe sentito da fonte da Roberto Maroni, Umberto Bossi e Silvio Berlusconi si sono accordati comunque per andare alle elezioni a maggio e si tratta solo di trovare il pretesto politico per far crollare il tutto. Insomma, bisogna orientarsi in questa politica con anche il PD sconfitto. Sulla stampa c'è un po' il dramma del PD, lo stesso Castagnetti che dice, parliamoci chiaro, qui in Parlamento i numeri non li abbiamo e non li avremo mai. Ora anche nelle opposizioni ci si comincia a interrogare, anche Sant'Agata del PD, legarsi troppo alle vicende giudiziarie è stato un errore. Pisicchio dell'API, stiamo freschi se puntiamo tutto sui filmini e sulle foto, qual è la leadership alternativa? Dicono che Berlusconi è vecchio, ma noi chi proponiamo? Insomma, anche l'opposizione che inizia a interrogarsi, a dire ma dove vogliamo andare, i voti non ci sono. Insomma, gongola per l'ennesimo giorno il foglio di Giuliano Ferrara, l'aria buona di Roma, finalmente torna alla politica. Giuliano Ferrara è lo spin doctor, è tornato in primo piano e tra l'altro fa questa conversazione che non è un'intervista, ma è un'intera paginata sul Fatto Quotidiano con Luca Telese che lo va a intercettare al bar, lo insegue. È una chiacchierata anche spassosa del solito Ferrara che dice... è un dramma, una tragedia. Penso ai dati di vendita di voi del Fatto e ti fanno stare male? Eh sì, dicono che vada benissimo. È vero che malauguratamente continuate a vendere? Sì, Ferrara finge uno svenimento. Ah! Ecco, vedi, è chiaro che sto lavorando per voi. Poi c'è questo inseguimento proprio per le strade con Telese che... Tampina Ferrara che gli dice ma voi non vi rendete conto se non ci fosse Berlusconi come fareste a divertirvi, di cosa scrivereste, poi Berlusconi è un noto liberale, ci fossero al potere altri vi avrebbero chiusi oppure vi comprerebbero con i soliti metodi della vecchia scuola bolscevica. Poi alla fine dice via che sto entrando al foglio, ma l'intervista, io non ho dato nessuna intervista, ma come no, ma certo ho detto di no anche a Repubblica. Io devo lavorare, non do nessuna intervista, finisce con Ferrara in maniera un po' anche teatrale, che chiama soccorso, carabinieri, mandatemi via questo giornalista, redattore, fascio comunista. Sta di fatto che tutto viene pubblicato, questa chiacchierata, questo pedinamento più che altro di Luca Telese sul Fatto Quotidiano. Siete fortunati ad avere Silvio, lui non vi chiude, è un vero liberale, mentre il PD vi cancellerebbe. Così Giuliano Ferrara parla per la prima volta, ma non è un'intervista, al Fatto Quotidiano del suo nuovo ruolo di consigliere Silvio Berlusconi. C'è tutta la vicenda Ruby ancora, perché Ruby, come detto, la Camera si è pronunciata per respingere gli atti alla Procura di Milano. Ma il vero fronte che troviamo sviluppato ovunque è quello del tarlo delle foto. Il giornale dice è la nuova ossessione, la nuova persecuzione, no? Dire che ci sono le foto ma nessuno le fa vedere. La Procura dice ci sono delle foto agli atti ma sono irrilevanti. Il Fatto Quotidiano invece a pagina 4 grida così: il Papi desnudo. Le foto del Bunga Bunga ci sono sul mercato, valgono tantissimo. In almeno una di queste Silvio Berlusconi è ritratto senza vestiti e circondato da alcune ragazze. Il Presidente del Consiglio sa dell'esistenza di queste immagini e trema, è terrorizzato dalla possibilità che questi scatti compromettenti siano pubblicati. Le foto scattate in più occasioni nelle residenze del Presidente del Consiglio sono state scattate dai cellulari delle sue tante ospiti. Un primo tentativo di piazzare sul mercato le foto c'è stato recentemente, mai fallito. Qualcuno si è presentato presso un'agenzia del settore per vendere pochi scatti eloquenti pretendendo oltre €1 milioni. Secondo il Fatto Quotidiano si può dire che nelle foto in circolazione sono ritratti festini a luci rosse. In una di queste immagini, appunto, Berlusconi senza abiti circondato da ragazze. Secondo il Fatto Quotidiano le foto ci sono, anche per Libero i giudici scoprono le foto, ci sono i corpi, non i reati, sono foto, secondo Libero, che circolano ma irrilevanti, tanto che altro che pistola fumante, Libero, in modo un po' geniale, titola pistolino fumante a pagina 6. Una cosa però sulla quale vi lascio alle informazioni sul traffico. Ho visto la prima pagina di Libero e ho colto una cosa che magari non conta nulla, ma che mi ha fatto riflettere. Libero il lunedì non esce, ma oggi troviamo in prima pagina questo riquadro. Lunedì 7 febbraio. Libero sarà in edicola con un'edizione straordinaria. E perché? E che mai dovrà succedere questo weekend per annunciare un'edizione straordinaria di Libero lunedì 7 febbraio? Ma misteri. Trovate ancora molti articoli, analisi su quello che sta succedendo in Egitto. Abbiamo sentito anche il nostro Alberto Negri nel GR poco fa, e Alberto Negri firma anche uno dei reportage a pagina 9 del Sole 24 Ore. Il Cairo spaccato, caccia ai media. Ecco, io mi sono sempre chiesto perché adesso c'è la caccia ai giornalisti, ai fotografi. E scrive Alberto Negri: è nel repertorio di tutte le dittature la caccia ai media locali, indipendenti, a quelli stranieri, come se questo potesse salvarle dalla cruda verità che oggi affiora molto più rapidamente di un tempo. Uno straniero picchiato a morte di cui si ignora la nazionalità, un giornalista svedese del canale televisivo pubblico ferito gravemente, spari contro i manifestanti, bombe Molotov, una decina di vittime in 24 ore, un lungo elenco di violenze, intimidazioni, arrestati i delegati di Amnesty International, di Human Rights Watch, l'ONU ha cominciato a evacuare parte del personale. Ho letto anche che è stato arrestato il marito di Lucia Annunziata, di cui da ieri mattina non si ha più notizie. E tra l'altro Repubblica invece mette un reportage, o meglio un articolo, dal copyright della ABC News di Christiana Manpour, una delle giornaliste internazionali più famose, che ha intervistato tutti i più potenti della terra e che ha intervistato anche, racconta: sono uscita ora dal palazzo dove ho incontrato il presidente Hosni Mubarak, che mi ha detto non ho mai avuto intenzione di ripresentarmi alle elezioni, sono molto dispiaciuto di quello che è successo, vedere fratelli che combattono contro fratelli, non mi interessa quello che la gente dice sul mio conto, mi importa del mio paese, mi importa del mio Egitto, non fuggirei mai, e poi ha ribadito: morirò su questa terra. Questo Hosni Mubarak a Christian Amanpour, come riporta Repubblica. Ritorniamo alle cose italiane. Intanto il fatto che si parli poco di Egitto e si parli molto di cronaca nera, come detto, è l'appello che ha fatto, il monito che ha fatto il presidente Napolitano un paio di giorni fa. Ed è il tema del nostro sondaggio: troppa cronaca nera in TV e nei telegiornali. Oggi sia il Giornale va a intervistare Clemente Mimun, il direttore del TG5, TG Violenti, peggio Santoro. Peggio talk show come Santoro, come Anno Zero, dice Clemente Mimun. Napolitano scorda che c'è l'auditel, ci sono le regole di mercato, anche se forse ha ragione come principio. Così come il Corriere della Sera va a intervistare su questo stesso tema Mario Orfeo, direttore del TG2. L'informazione qui è garantismo, pluralismo, senza eccessi, senza morbosità. Ma noi vi chiediamo, secondo voi c'è troppa cronaca nera? Ne parleremo alle 8.30, avremo anche tra gli ospiti il direttore di Studio Aperto su Italia 1, uno dei TG che insomma spesso viene più additato come dei TG molto attenti a questo tipo di cronaca. Votate su radio24.it, ne parleremo più tardi. Voglio andare a notizie di cronaca interessanti che danno qualche spunto. Beh, intanto la vicenda di Calisto Tanzi. Ci siamo anche chiesti qui in redazione se fosse giusto fare oggi una puntata sul carcere evitato per il momento a Calisto Tanzi. Calisto Tanzi, ieri la Guardia di Finanza si è presentata alla sua villa, dove agli arresti domiciliari, per sequestrare ancora parte del tesoro, racconta La Stampa pagina 20 con Franco Giubilei. Non erano passate neanche 12 ore dalla decisione della Cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva chiesto il carcere all'ex patron di Parmalat, quando i finanzieri hanno suonato la villa di Vigatto consegnando la copia del sequestro preventivo disposto dalla procura. E allora si sono portati via una statua in bronzo di Giorgio De Chirico, una scrivania del 600 valore 300.000 euro, due trumeau del 700 che stavano in camera da letto e in cucina, e poi sotto sequestro anche un monumentale lampadario di Murano composto da 100.000 gocce di cristallo. 100.000 gocce di cristallo. Prezzo stimato 1,5 milioni di euro. Pensa se a quelli della finanza nello smontarlo gli cadeva. 100.000 gocce di cristallo. In realtà, poi hanno detto, il lampadario infatti è rimasto lì nella villa, è sotto sequestro, ma ecco, prima di evitare danni, quelli della Guardia di Finanza hanno detto lasciamolo qua, 100.000 gocce di cristallo. Resta sotto sequestro, ma non sono riusciti a smontarlo, quelli della Guardia di Finanza. Dunque, il sequestro del lampadario da 100.000 gocce di cristallo, valore 1,5 milioni di euro, è rimandato. Vabbè, siamo alle segnalazioni conclusive, trovate anche moltissimo nella pagina degli spettacoli sulla scomparsa di Maria Schneider, diventata celebre nel film di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando, Ultimo Tango a Parigi. Sapete anche celebre per quale scena che coinvolgeva anche il burro. Una Maria Schneider che raccontano tutti i giornali è rimasta imprigionata in quel ruolo, ha fatto poi un film con Jack Nicholson, Professione Reporter, ma non è mai uscita veramente. Poi La Droga, si è spenta a 58 anni, l'odio anche nei confronti di Bernardo Bertolucci, al quale ha detto mi ha rubato la giovinezza, aveva 19 anni Maria Schneider quando ha fatto il film Ultimo Tango a Parigi. Oggi Bernardo Bertolucci: non ho fatto in tempo a chiederle scusa, ecco la testimonianza su Repubblica pagina 57, solo oggi mi chiedo se c'era qualcosa di vero quando Maria mi accusava di averle rubato la giovinezza, o è scomparsa troppo presto prima che io almeno per una volta potessi chiederle scusa. Ecco, dal 72 a oggi direi che Bernardo Bertolucci di tempo ne ha avuto abbastanza, ma ora dice è scomparsa troppo presto. Insomma, qualche annuccio per telefonarle magari c'è stato. Chiudo con il calcio. Ebbene sì, vedete che anche se l'Inter vince, anche se l'Inter è a meno 7, ma c'è una partita da recuperare, cito comunque la Gazzetta: Inter new entry, scala la classifica con i gol dei nuovi. C'è anche la vicenda di Chivu che ha dato un pugno a un giocatore del Bari, sarà squalificato con la prova TV. Tra l'altro un Chivu distrutto, dice non so che mi è successo, piange negli spogliatoi, scusate, mi sento un uomo di M, spero che le mie figlie non guardino mai queste immagini. Effettivamente la follia di un giocatore che è sempre stato un giocatore molto, molto, abbastanza equilibrato, insomma, non un giocatore che si è mai messo in evidenza per questi episodi. Ma il calcio si interroga anche molto, e lo fa anche il Messaggero, sulla Roma. La Roma americana, come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono tante analisi. Per esempio vi segnalo sul Messaggero su chi è questo Thomas Di Benedetto, che sta per acquistare, a capo della cordata americana che vuole acquistare la Roma, pagina 10. Thomas Di Benedetto in una rarissima foto, un po' personaggio misterioso. La Gazzetta, rompi pallone di Gene Gnocchi: primo problema per gli americani che compreranno la Roma, vogliono imparare l'italiano, da Totti, il giornale radio.